Primoma è importantissimo, Primone. Quella casa lì adesso è chiamata ECA, è una casa del comune, ma inizialmente, molto tempo fa, era il municipio del paese. Qui era sede appunto del vicario, dove gestiva tutti gli atti, sia penali che civili. Quindi si decideva di vita o di morte di tutti gli abitanti di Nago. Poi ci sono state di sopra la parte alta della casa, la scuola elementare, fino al 1910. C'è stato sede dei Vigili del Fuoco, sede del Monte di Pietà, quindi qui parliamo del 1600 circa, perché lì vicino c'è la chiesa di Santa Trinità e faceva parte appunto integrante della chiesa. Erano dei parecchi preti, sacerdoti che gestivano appunto anche il Monte di Pietà. Quindi diciamo che Nago era autosufficiente, era un paese circondato da mura addirittura, e quindi era autosufficiente, c'era tutto. Dall'ospedale, anche l'ospedale c'era lì, faceva parte anche dell'ospedale, era un ospizio.